Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buon sabato sera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo delle nuove virtù del mercato di Luigino Bruni. Buonasera, professor Bruni. Buonasera. Luigino Bruni, professore associato di economia politica a Milano Bicocca, dove insegna microeconomia, economia ed etica e filosofia dell'economia. Ha scritto altri libri come il Dizionario di Economia Civile con Stefano Zamagni, di cui abbiamo già parlato negli anni scorsi in questa nostra rubrica, e adesso ha pubblicato Le nuove virtù del mercato nell'era dei beni comuni, edito da Città Nuova. Allora, professor Bruni, cosa sono queste virtù del mercato in un momento in cui il mercato è messo un po' sotto accusa per aver provocato in fondo la crisi in cui ci troviamo? Sì, infatti uno degli scopi di questo mio libro è mostrare teoricamente ma anche attivamente che anche il mercato ha le sue virtù, nel senso che essendo il mercato un ambito di vita in comune, un ambito dove le persone si esprimono, vivono, anche sognano progetti, esprimono desideri, come tutti gli ambiti della vita è un ambito potenzialmente aperto alle virtù, e questa è già una tesi un po' nuova dal punto di vista teorico, perché oggi c'è tutto un movimento culturale che va attorno a sigle come la decrescita o anche un certo comunitarismo che tende ad associare tutto ciò che sa di mercato al vizio e non a comportamenti buoni potenzialmente. Io invece faccio vedere sia dalla storia del pensiero che dalla teoria economica e dei fatti che c'è un modo di vivere il mercato che è virtuoso. Al tempo stesso nel libro indico che oggi c'è un fatto nuovo, cioè che le virtù del mercato antiche, tradizionali, quelle diciamo di Adam Smith, dintorni, sono legate all'innovazione, alla creatività, alla responsabilità, alla prudenza, cose che appunto sono virtù, non vizi, non sono più adeguate nell'era dei beni comuni, perché se siamo entrati, come siamo entrati, col terzo millennio, in modo drammatico, nell'era dei beni comuni, cioè nell'era dove i beni più preziosi e cruciali sono non solo le scarpe, il telefonino e l'orologio, che i tipici beni privati, ma sono acqua, aria, ambiente, traffico, la vita nelle città, tutto ciò che sa di consumo fatto assieme ad altri, quindi beni comuni o beni collettivi. Se sono questi i beni più preziosi, dove si creano maggiori conflitti, non solo economici ma anche politici, l'energia, pensiamo, se sono questi, allora le virtù del mercato, che sono virtù dell'individuo, virtù individuali, virtù del carattere della persona, non sono più sufficienti per gestire i beni comuni. Quindi io nel mio testo faccio vedere che bisogna passare oggi dalle antiche virtù del mercato, che rimangono interessanti e buone, meglio le virtù dei vizi, ma dalle virtù individuali passare a virtù più sociali, a virtù più relazionali, dove si parte dall'inizio anche ragionando in termini di noi e non soltanto in termini di io. Ecco, quindi nel libro si guarda e si precisa appunto già dall'inizio che si guarda il mercato in fondo con simpatia, con un atteggiamento costruttivo, cercando di cogliere all'interno del mercato tutte le opportunità che questo strumento, che in fondo è stato creato dall'uomo, può offrire in questa prospettiva. Quindi la realtà ci pone di fronte alla necessità di superare il mercato lasciato a se stesso e cercare un mercato in cui le persone siano veramente protagoniste, possano svolgere un ruolo attivo non solo attorno ai beni economici ma ai beni complessivi della società. Sì, cioè il mercato è un pezzo di vita e quindi ha tutti i visi, tutte le passioni della vita, quindi ci si ritrovano dentro dei santi, pensiamo a Toniolo ma anche a Tovini, questi banchieri, economisti, imprenditori che si sono fatti letteralmente santi, nel senso eccellenti, perfetti, facendo i banchieri, gli imprenditori e gli economisti, ma è anche il luogo delle speculazioni diciamo più negative, degli abusi ma anche di comportamenti molto viziosi, è la vita, e quindi faccio vedere che è anche aperto al tema delle virtù. Però quello che è interessante secondo me ricordare è che il mercato è una realtà pluralista, cioè non è che c'è un solo mercato, un solo soggetto. Oggi nel mercato operano soggetti più diversi, abbiamo le cooperative sociali come abbiamo le imprese diciamo, puramente, altamente speculative. La scommessa della democrazia oggi è come ci sono più forme di partiti politici che per garantire la democrazia politica, occorrono più forme di impresa e di culture economiche per garantire la democrazia economica. Io sono contrario a questa sorta di immunismo o di, diciamo, come si può dire, standardizzazione delle forme di impresa, dove si va verso un modello unico del grande, lontano, anonimo, che è l'impresa multinazionale che atterra in un luogo, poi riparte, eccetera. Questo è un soggetto che ha la sua utilità in certi momenti storici, forse oggi un po' meno, ma ci sono anche altri soggetti che devono e possono vivere, le cooperative, le imprese sociali, le imprese di comunione, il commercio equo. Cioè il mercato è civile quando è plurale e pluralista. Ecco, in questo lo ricordo, il pensiero italiano ha una lunga tradizione, cioè in fondo sono stati gli economisti italiani, forse poco conosciuti, che hanno cominciato nel Settecento a parlare di economia civile. Sì, ne hanno parlato perché l'Italia era già civile prima degli economisti, c'è tutto il Medioevo, l'umanesimo civile. L'Italia è il luogo dei comuni e della diversità. L'Italia è il luogo che ha messo insieme mercanti, frati, poeti, architetti, artigiani per fare l'umanesimo, il Rinascimento, che ha messo insieme Peppone e Don Camillo, che erano interessanti perché erano uguali, non perché erano diversi. Cioè che è stato capace di mettere a sistema la biodiversità. Questo è tipicamente italiano. E quindi l'economia civile è il luogo della diversità umana, dove coesistono i mercanti, gli artigiani, gli imprenditori, i monti di pietà e le banche degli ebrei. Cioè queste, è questo che ha fatto l'Italia grande, cioè, o meglio, che ha fatto grande l'Italia nei momenti nei quali è stata grande. Invece quando in Italia è prevalso la rivalità, la disunità civile, non solo politica, è prevalso il piagnisteo, in quei momenti l'Italia ha avuto momenti di involuzione. Quindi anche oggi, io quello con cui chiudo il libro, se l'Italia vuole ritrovare un suo posto nel mondo, non diventare il Luna Park del mondo dove si va a fare turismo e un po' di arte, ma vuole riavere un posto anche produttivo nel mondo, un luogo di innovazione, deve riscoprire questa diversità produttiva, deve mettere a sistema i distretti, ma non solo i filati di Prato, ma i filati di Prato insieme a Michelangelo, a Chianti e insieme agli Uffizi. Cioè l'Italia che ha futuro sarà sempre un'Italia che è capace di mettere a reddito i suoi capitali civili, capitali culturali, capitali sociali. Ecco, ma come può funzionare meglio il mercato, immettendo nel mercato, cioè considerando come parte del mercato anche la gratuità, il dono, la relazione, il fatto di avere appunto dei beni che non sono materiali e non sono misurabili con la tradizionale misura della moneta? Questo non sono due cose appunto alternative, professor Bruni? No, un po' dipende da che cosa noi intendiamo con queste parole. Uno dei compiti che io ed altri in questi ultimi anni cerchiamo di assolvere è, come dico nel libro, il riscattare gratuità è il dono dei luoghi angusti dove andiamo confinati, che sono, come io a volte uso come espressione un po' terosimpatica, come il limoncello nel pranzo, che c'è il primo, il secondo, il contorno, se poi c'è il limoncello va bene, ma si mangia lo stesso. Se il dono diventa questo, diventa il gadget, lo sconto, il regalo di Natale, diventa ciò che si fa in più che non è dovuto, la battuta, quel qualcosa di totalmente simpatico ma non importante, probabilmente rilevante nel mondo del lavoro, se è questo il dono, allora a me personalmente non interessa, non interessa a nessuno. Se invece il dono gratuità è l'eccedenza antropologica, cioè il fatto che gli esseri umani hanno bisogno in quello che fanno di metterci tutto loro stessi, tutto, e quindi la passione, l'intelligenza, che non posso comprare, cioè nessun contratto può comprare la mia passione con cui entro in classe al mattino, possono comprarmi la prestazione, posso controllarmi gli orari in cui entro in classe, in cui esco, ma nessun contratto mi compra la passione, l'intelligenza, la creatività. Queste cose sono donate o non ci sono. Questa è gratuità, cioè la dimensione dell'umano, dell'eccedenza, del di più, che è ciò che fa l'umano diverso da una macchina o da un animale. E quindi questa dimensione è importante per il mercato, perché quando un'impresa, un'istituzione, un'università non ha un po' di persone così, che vanno oltre il dovuto, che ci mettono creatività, passione in quello che fanno, le imprese falliscono. Non possono avere soltanto solo contratti, devono avere anche dei doni, ma dei doni che non sono, ripeto, l'irrilevante, il superfluo, ma sono l'essenziale, sono ciò che fa un'impresa di successo oppure fa un'impresa che nel breve periodo o medio periodo tende a fallire. Quindi utilizzando le virtù del mercato e non cercando di superare, come si dice all'inizio del libro, cercando di credere che si possa costruire una società migliore senza mercati, senza economia, senza finanza, senza soldi, senza moneta, senza banche. Ecco, non è privandoci di queste cose che si può costruire una società migliore, ma con buona economia, buoni mercati, buona finanza. E questa è la prospettiva, ma è una sfida abbastanza difficile, professor Bruni. Ma è difficile, però questo è un momento favorevole, direbbero i greci, un kairos, un momento propizio. In che senso? Che nei momenti di crisi profonda come la nostra, che non è una crisi che passerà nel giro di qualche settimana, una crisi profonda, nei momenti di crisi sono anche i momenti di cambiamento, come nelle persone fisiche, nelle persone singole, quando si è in crisi a volte si cambia vita, quando si supera un momento di depressione o una malattia seria. Quindi questa crisi può farci riflettere su che cosa stiamo facendo come Occidente, che tipo di mercato abbiamo messo in piedi, se vogliamo andare verso un mondo dove il lavoro è soltanto, come dire, un fattore produttivo accanto agli altri, o se il lavoro torna ad essere un pezzo di espressione della mia personalità, dei miei valori, delle mie passioni. Quindi è un momento buono per riflettere su queste cose. Cioè, io oggi ho timore di due tendenze, secondo me, entrambe pericolose. La prima è un ottimismo eccessivo per i mercati che vanno sempre e in ogni caso bene, basta esportarli, no? Questa idea un po' ingenua di un certo liberismo sfrenato, eccetera, che pensa che il mercato è buono in quanto mercato senza nient'altro che non sia il mercato stesso inteso come interessi. Questo è un errore, secondo me, pericoloso, ma è anche un altro errore molto pericoloso: ci vede il mercato sempre come luogo disumano. La mia sfida è dire: una buona economia si fa con un'economia civile, una buona società si fa con un'economia che funzioni, che mette le persone al loro posto, non in modo retorico come si fa spesso, l'etica in economia, l'importanza dell'etica. Poi che cosa vuol dire l'etica? È l'etica degli immigrati o l'etica degli hedge fund? Invece il dire: no, diamo spazio oggi alla creatività delle persone, alla voglia di vivere, rimettiamo in moto. Io sono ad esempio fautore di un rilancio dell'idea della cooperazione, non è semplicemente la cooperativa. Ecco, sono tante possibilità, tanti problemi, l'importante è forse mettere al centro appunto la persona con le sue prospettive, tutte le sue caratteristiche, tutte le sue potenzialità, e forse in questo sta anche non tanto il segreto quanto una ricetta da riprendere in mano. E questo libro del professor Luigino Bruni, che ringrazio di essere stato con noi questa sera. Grazie professor Bruni. Grazie a lei. Ricordo il titolo: Le nuove virtù del mercato nell'era dei beni comuni, idee economia, edito da Città Nuova, per 256 pagine, 18 euro. Vi dicevo, questo libro può essere una ricetta, un percorso utile per riflettere su questi temi altrettanto importanti quanto importante è cercare una soluzione per questa crisi così grave in cui siamo piombati negli ultimi anni. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, ringrazio anche Roberto Scartritti in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento è per sabato prossimo.